Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Partiamo da un'intervista che abbiamo realizzato pochi momenti fa con Johannes Hahn. Johannes Hahn è il commissario europeo per le politiche regionali. Questo significa che di fatto è l'uomo che orienta gli investimenti europei nei fondi di coesione. E cosa significa, se ancora questo non basta, che ci sono per esempio in Italia 31 miliardi di euro da spendere e ormai mancano 2 anni. Se non saremo in grado di spenderli, questi soldi spariranno. Ecco, ne ha parlato con il ministro Triglia questa mattina, il ministro per la coesione territoriale, che ha ricordato come la quota di spesa italiana dei fondi europei sia salita dal 15 al 37% nel corso degli ultimi 2 anni, ma molti sforzi sono ancora da fare. La verità, ci ha detto il commissario Hahn, è che in alcune regioni italiane non c'è nessun progresso da anni. L'ha detto da amico dell'Italia, come si è definito lo stesso commissario, che è austriaco viennese di nascita, amico preoccupato di alcuni casi di mobilismo amministrativo che penalizzano pesantemente la nostra economia. Intanto si profila il nuovo budget europeo, quello 2014-2020, e dice Hahn, per il prossimo budget le cose devono assolutamente cambiare. Ma sentiamo un suo passaggio. Alcune differenze, basta guardare le cifre. Quello che preoccupa è che a volte si ha l'impressione che non ci siano stati progressi per anni. Piace dire che l'Italia è uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, ha una lunga tradizione amministrativa e quindi ci si potrebbe aspettare che la capacità amministrativa sia migliore rispetto a quella di altri paesi dell'Unione Europea. Lo dico perché mi considero un vecchio amico dell'Italia. Dico che in quanto tale non trovo accettabile che ancora debba riscontrare questo tipo di debolezza. Noi contribuiremo, faremo tutto quello che possiamo a livello di Unione Europea proprio per migliorare questa situazione. Quindi il prossimo periodo di programmazione dovrebbe essere il periodo nel corso del quale supereremo finalmente tutti i problemi del periodo attuale. È possibile. È possibile senz'altro. La Siria, intanto cambiamo tema, la Siria potrebbe trascinare Hezbollah nella lista nera europea delle organizzazioni terroristiche. Finire nella lista nera, al pari di Hamas e delle FARC colombiane. Questa volta potrebbe essere la volta di Hezbollah, partito sciita libanese dotato di un'ala militare. Nell'Unione Europea si è riaperta una discussione, mai sopita, dopo che la Gran Bretagna ha avanzato una formale richiesta, inserire Hezbollah nella lista dei gruppi terroristici. La questione sarà discussa ufficialmente all'inizio di giugno e i tempi potrebbero essere maturi. Anche paesi da sempre più cauti, come la Francia, che ha un legame storico con il Libano e che teme per le possibili ritorsioni sui caschi blu dispiegati nel paese dei cedri, sembrano convinti della necessità di una svolta. Inserirli nella lista nera vuol dire non avere relazioni politiche con loro. È una decisione difficile, afferma Charles Tannock, europarlamentare britannico. Ma fin quando appoggeranno Assad, dobbiamo agire e difendere i nostri valori, quali la democrazia e i diritti umani. A innescare la reazione di molte cancellerie europee è stato proprio il coinvolgimento di Hezbollah nel conflitto siriano, al fianco di Bashar al-Assad contro i ribelli. Sulla Siria però l'Unione continua ad avere un atteggiamento attendista. Ieri i ministri degli esteri hanno deciso di sospendere l'embargo sulla vendita di armi al paese per aiutare i ribelli, ma nessuno invierà armi ai ribelli almeno fino ad agosto. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono Federico Taddia e oggi vi voglio segnalare il corso Io in Europa per la cooperazione internazionale. promosso dal Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale di Trento. Aperto ad un massimo di 20 partecipanti, il corso si svolge nel mese di giugno attraverso due moduli a Trento e a Bruxelles e vuole coniugare l'opportunità di conoscenza della dimensione europea della cooperazione con l'approfondimento delle figure professionali che animano questo settore, offrendo una opportunità per definire il proprio curriculum formativo attraverso la conoscenza diretta delle istituzioni europee. Le candidature si accettano fino al 31 maggio. Per informazioni e iscrizioni online www.tcic.eu. E naturalmente, come sempre, ritrovate tutto su radio24.it. Siamo in conclusione. Un saluto da Gigi Donelli, da Filippo Aureggi in regia. Naturalmente l'appuntamento è per domani. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.